cioè il sentimento diventa un elemento trainante tutti noi, e siccome ci riempie, perché ci riempie la vita, ci riempie il desiderio, ci fa sognare, ci rende anche un po' ciechi. Si dice che l'amore rende cieco, è assolutamente vero. Quante volte, credo tutti gli ascoltatori hanno esperienza, io ho esperienza personale, non so se tu Nicoletta, ma il fatto che quando, dopo che è finita una storia, oddio, tu ti sei accorto che hai perso 2 anni e sapevi già che era finita, ma non riuscivi a staccarti. Quindi il cuore è importantissimo, ma è anche un grande rischio. Questo perché? Perché il sentimento e l'amore diventano una forza indispensabile a tutti noi, quindi noi decidiamo di rimanere in una situazione brutta che non funziona perché abbiamo comunque un vantaggio, possiamo sognare. E il sogno direi che vince qualsiasi forza decisionale negativa. Professor Cavedini, lei è d'accordo? Assolutamente sì, sottoscrivo. Sottoscrive. Sottoscrivo. Saluto e ringrazio il professor Perna e il professor Cavedini. Grazie e buona giornata. E adesso che abbiamo imparato a prendere una decisione, decidete di fermarvi insieme a me, perché iniziamo un percorso di arte e sensoterapia. Ho coinvolto in questo progetto naturalmente anche Alberto Pellai. Ciao Alberto. Ciao Nicoletta. Abbiamo deciso, dicevo Alberto, di scegliere una parola che dovesse fare un po' da fil rouge, da legare queste esperienze, questi stimoli che vogliamo suggerire ai nostri amici da casa. Abbiamo discusso un po' perché eravamo indecisi, abbiamo detto beh, è il primo giorno di novembre, è l'autunno, è il mese che non è, come si dice, no? Né carne né pesce, l'autunno ci sta lasciando, l'inverno non è ancora arrivato, la natura è spoglia ma non proprio scarna come l'inverno. Poi non ci piaceva, vero? Anche se c'è anche un pezzetto se... con i 3 giorni del Condor che proprio va a parlare di novembre. E anche se il mese di novembre credo che poi vada molto nella direzione della nostra parola di oggi, cioè in fine dei conti questo cielo che ci si chiude sopra, questo chiudersi nella nostra casa, questo stare con noi stessi, richiama molto un tema che hai trattato la scorsa settimana in essere. L'interiorità. Che adesso non la decliniamo solo al maschile, ma è un'interiorità, devo dire, proprio maschile, femminile, a tutti, che va comunque coltivata. E l'interiorità come modo per guardarsi dentro ha molto a che fare perciò con la parola di oggi che abbiamo scelto e abbiamo scelto la parola che viene proprio fuori, poi uno ce l'ha sempre lì sotto gli occhi. Abbiamo scelto verità. C'è questa ricerca spasmodica della verità che diventa una qualche cosa di diverso dalla verità, diventa curiosità, diventa morbosità, diventa forse non rispetto, diventa spettacolo. E allora con Alberto abbiamo pensato di ritornare alla verità, quella vera che ci fa crescere, che ci aiuta, che va ricercata, custodita, protetta. Alberto. Sì, e siamo rimasti molto molto colpiti perché tutto quello che sta succedendo nei media legato ai fatti di cronaca delle ultime settimane, in qualche modo da una parte è ricerca della verità, dall'altra è totale negazione della verità. E io devo dire, lavorando con i bambini, che una delle cose che mi colpisce è che loro, che davvero vanno alla ricerca della verità vera, sono invece travolti da un abisso di confusione. Probabilmente noi adulti ne siamo responsabili. E ci lavoreremo. Adesso però andiamo a sentire che cosa succede sulle strade, sulle autostrade, e poi torniamo di nuovo insieme con un libro, Alberto, una canzone, un film, che esploreremo sempre in questa angolatura, la ricerca della verità, quella bella. Essere e benessere. E siamo tornati insieme oggi, questo percorso di sensoterapia, Alberto, vogliamo chiamarla così? Sì, anche arte e terapia in qualche modo vanno proprio insieme. La parola che ci conduce in questa esplorazione di sensi ed emozioni è verità, e abbiamo scelto un libro da suggerirvi. Ne ascoltiamo un breve estratto. L'ho detto ai carabinieri, l'ho detto al procuratore, l'ho detto a tutti quelli che mi hanno chiesto cosa avete visto. L'albero abbiamo visto, l'albero ghiacciato. È stata la prima cosa che abbiamo visto appena arrivati al bosco, e anche dopo, quando abbiamo visto il resto, è rimasto l'unica cosa intera che abbiamo visto. L'albero. Era lì, al suo posto, all'imboccatura del bosco, cristallizzato come sempre nel suo cappotto di ghiaccio, la cui trasparenza era offuscata dalla neve fresca, ma era rosso. Il brano che avete appena sentito è un estratto da XY di Sandro Veronesi, un libro che tiene il lettore con il fiato sospeso, anche se non è un giallo, ma è un libro che parla proprio della ricerca della verità. Qui dentro ci sono due figure, quella di un sacerdote, Don Ermete, e di una giovane psichiatra, Giovanna Gassion, che in qualche modo hanno realmente in mente che cosa è importante tutelare, che cosa si deve andare a presidiare per salvaguardare la dignità dell'essere umano. E quindi è una lotta tra il bene e il male, tra il maschile e il femminile, questa idea di XY proprio primordiale, lì da cui tutto deriva, secondo me è molto molto interessante nel percorso di emozioni, arte e terapia che proponiamo oggi ai nostri. Lo vedresti come tradotto in un film? Credo sì. Di sì. E credo... Io lo vedrei affidato a Tony Servillo, non so perché. Io non riesco a capire, a sì. vedere Vero? O a prevedere a chi lo affidiamo, ma certamente... Allora, un libro XY di Sandro Veronesi che noi consigliamo a chi in questo momento è non solo alla ricerca della verità, ma Alberto, a chi? Perché questo libro? Perché tutti noi stiamo facendo andare la testa nel capire cosa è vero e cosa non lo è, cosa è giusto e cosa non lo è, cosa davvero è giusto sapere e vogliamo sapere quando c'è in gioco un fatto di cronaca e cosa invece è puro spettacolo e puro show. È un libro quindi, che fa pensare. Ecco, XY per fermare a riflettere. E noi oltre a riflettere vogliamo anche ascoltare e abbiamo abbinato proprio la parola verità al testo di una canzone di Anna Oxa che è proprio uscita con un CD da poco, quindi è quasi, no? È quasi una novità, una fresca verità, perché è uno stile nuovo che caratterizza il CD e ci sono delle parole che ascoltate mettono in moto qualche cosa dentro di noi. Noi al momento vogliamo solo questo. È per noi che una strada si chiude mentre un'altra nel mondo lontano si perde, dove gli uomini confondono gli uomini parlandosi in lingue diverse. E questa unione di musica e pioggia da cui mi lascio bagnare, se fossi lo spirito di questa terra, se fossi lo spirito di questa pioggia, lo saprei. Dall'orizzonte della strada. Un estratto dal CD Proxima, che è il nuovo album di Anna Oxa, che abbiamo scelto, devo dire, quasi senza esitazione, Alberto, un po' perché Alberto è pazzo di Anna Oxa. Ma io ti dirò. E mi ha molto condizionato, questo devo dire la verità. Ecco, tanto in tema di verità, è stato veramente una presa di posizione di Alberto, ma io ho accettato volentieri perché poi alla fine, secondo me, in qualche modo può aiutarci. Alberto, perché? Almeno mi ha colpito e spero che colpisca i nostri ascoltatori, perché è davvero un progetto dove vediamo una donna, un'artista molto famosa, alla ricerca di quella che lei a volte ha raccontato come essere un'altra dimensione. Proxima, nel modo in cui lei racconta questo progetto, è proprio la visione di qualcosa che ancora è lì e non vediamo, ma di cui andiamo alla ricerca. E davvero questo disco è una collezione di piccole tracce che sono frammenti di percorsi di ricerca della verità nella vita di tutti i giorni di noi uomini e donne moderne. Questa canzone che abbiamo sentito è proprio un incontro d'amore che avviene nel momento in cui ci si sente persi, improvvisamente scocca proprio la scintilla, succede qualcosa che può completamente cambiare, e probabilmente in questo è realmente un percorso onesto, ricco perché, di verità. No? Un po' di maturità ci vuole nell'affrontare la verità e nel cercare la verità. E devo dire che la scelta invece del film che vi suggeriamo a chiusura di questo nostro percorso di arte terapia, sensoterapia, chiamatela un po' come volete, ci ha visto assolutamente concordi, perché io volevo stare in qualche cosa che avesse a che fare un po' con novembre, l'inverno, l'autunno, queste atmosfere che ci invitano un po' alla riflessione, ai tempi lenti, all'interiorità. E abbiamo scelto un film che Alberto ed io abbiamo visto in momenti diversi, situazioni assolutamente diverse, 10 inverni. A me è piaciuto tantissimo, un'Isabella Aragonese magnifica, mi è piaciuto anche Michele Riondino e anche la storia. Entriamo. Yes, sir. niente di piace. No, ve lo dico così per dire. Volevo fare qualcosa di bello, non lo so, giapponese, sai, matematica giapponese. Ti ricordi? Certo che mi ricordo. Hai finito il deficiente? Io ti sto antipatico, sì? No. Cara Camilla, sappi che quella che hai l'onore di leggere è la prima email della mia vita. Silvestro, Fyodor, nice to meet you. Però scusa, mica te l'ho detto io di venire. Ma dove vai? A Mosca, sono a Mosca, vado a fare un giro a Mosca. Mi sarete lasciati, allora qual è il problema? Scusami. Hai fatto una cazzata, mi devi chiedere scusa. Ho già chiesto scusa. Ma scusa convinto! Scusa convinto! Ecco, se avete occasione, vedetevelo, proprio con Fausto Brizzi in una puntata dedicata all'interiorità. Fausto Brizzi ci ha dato proprio l'indicazione, andatelo a vedere il suo film In coppia, poi parla, non parlatene, non prendete le difese. Sì, trovo proprio anch'io che sia un film delizioso, la storia di un amore che viene fotografato in 10 inverni consecutivi, è un continuo prendersi e lasciarsi, volersi e mollarsi, incorrersi e perdersi, per poi arrivare alla vera essenza, cioè quando improvvisamente arriva il lieto fine, lo possiamo dire? No, salutiamoci. Non diciamo nient'altro. Vedetevelo. È certamente un film che spiega che la verità dell'amore spesso è molto più semplice di quanto invece noi la crediamo. Però anche che ci vuole tempo. Ci vogliono forse però 10 inverni, sono un po' troppo. Dai. Grazie ad Alberto Pellai, grazie a voi che ci avete seguito. Appuntamento come sempre a domani dopo il GR delle 11. Buona giornata da Nicoletta Carbone.